Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Bruxellando. Marie D è molto contenta perché a distanza di un anno ha il piacere di incontrare nuovamente Fabio Giannotti, direttore della Monte dei Paschi in Belgio. Direttore, benvenuto a Bruxellando. Grazie, il piacere è mio. Innanzitutto mi scuso per questa voce, ma sono reduce da un'influenza che non è ancora finita del tutto. È un piacere di nuovo essere con gli ascoltatori, anche perché penso che avremo la possibilità di fare una panoramica su cose abbastanza interessanti. Credo proprio di sì, anche perché la vostra banca non è nota soltanto per le attività, diciamo, più economiche o comunque legate agli affari bancari, però è anche molto nota per tutte le attività culturali che avete organizzato e che state ancora organizzando. A questo proposito, ci può raccontare un po' che cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo visti? Volentieri, è stato un anno estremamente intenso. Proprio l'anno scorso, il 27 marzo, organizzammo una serata di beneficenza a favore della VAI con il contributo determinante della signora Zanicchi, che è veramente ancora bravissima, e di Elisabetta Gardini, che presentò in quella circostanza. Dopodiché ci sono state tante altre manifestazioni di carattere ludico, perché abbiamo anche ballato, e credo che in periodi anche tristi come quelli che stiamo vivendo, carichi di impegni e responsabilità, si debba trovare comunque un modo e un momento per esorcizzare le difficoltà stesse. Quindi ci sono state almeno 3 situazioni di ballo abbastanza sfrenato, con il sostegno degli amici della Cialtro Night, che è il complesso spettacolo del dottor Massimo Busuoli, che è anche direttore dell'Enea, qui a conferma del fatto che diciamo, oltre gli aspetti professionali, vengono onorati anche quelli artistici. Abbiamo fatto cose importanti a sostegno delle associazioni, in modo particolare il VAI, le Volontarie Assistenze Italiane, perché portano in maniera abbastanza silenziosa ma continua il contributo e il sostegno a quei connazionali, ce ne sono molti che hanno grosse difficoltà di carattere economico. Nell'ambito di queste manifestazioni abbiamo ricordato la nostra amica Fiorella, che è venuta a mancare, quindi una di queste serate è stata dedicata appositamente a lei, e anche in quella circostanza raccogliemmo molti fondi. Continua l'attività a sostegno della pittura, quindi non solo pittori professionisti, anche di grande livello, ma anche tutti coloro che trovano che la pittura sia un mezzo espressivo di contenuto particolare. Quindi anche quest'anno proviamo una manifestazione che si chiama Il Desbione d'Oro, che è proprio dedicata ai giovani fino a 30 anni che vogliono cimentarsi, quindi avremo una serata finale verso metà giugno, ma insomma l'attività promozionale è già cominciata nel nostro sito, chi fosse interessato può trovare tutti i dettagli. E oltre a questo, una volta al mese abbiamo un vernissaggio qui presso la sede di Joseph D, che di fatto presenta artisti di livello di solito più che apprezzabile. Quindi abbiamo passato un bel Natale insieme, diciamo un momento per noi di cercare di cucire insieme i vari momenti della vita nostra e dei nostri clienti, immaginando un po' di essere una grande famiglia che condivide tante situazioni di carattere positivo. Quindi ci divertiamo anche, ovviamente. Volevo anche ricordare invece un altro evento bellissimo, straordinario, che è stato al Di Meola, al Teatro San Michel, qualche mese fa, che è stato semplicemente straordinario. Insomma, credo di non aver mai visto in vita mia suonare, o forse giocando veramente col modo di dire qui in francese, la chitarra, così come ha fatto al Di Meola in occasione di quel concerto di 2 mesi fa, più o meno, se ricordo bene. Grazie di averlo ricordato. Oltre a quello c'è stato un evento veramente di grandissimo livello con Beppe Dettori, che era una delle 3 voci dei Tazenda, anche lui al Teatro Saint-Michel, col contributo determinante del nostro amico Antonio Vilardi, che mi piace sempre ricordare perché è l'unico direttore di teatro al di fuori dell'Italia, si sta spendendo come al solito in un'attività davvero importante a sostegno cultura e della musica italiana, e anche quella, ti assicuro, è stata una serata di grandissimo livello che a parer mio avrebbe meritato un pubblico più importante. Con Antonio siamo rimasti d'accordo che sicuramente tornerà a Bruxelles, in quella circostanza avremo modo di dare maggiore livello di conoscenza alla manifestazione. Bene, noi di Bruxellando ovviamente saremo ben lieti di darne diffusione. Veniamo invece ad un evento che ci sarà tra qualche giorno. L'avete chiamato concerto di primavera e speriamo che arrivi veramente, riguarda Verdi. C'è un legame col bicentenario della nascita di questo straordinario compositore italiano? Assolutamente sì, diciamo l'occasione è data dalla inaugurazione della filiale di Liegi, perché anche in un momento difficile per tutti, compresa la nostra banca, evidentemente credo sia sempre giusto progettare il futuro. L'inaugurazione della filiale è avvenuta il 28 febbraio, adesso a distanza di circa un mese, con già buoni risultati e una buona visibilità. Mi piaceva offrire l'immagine migliore e più positiva dell'Italia alla città, quindi non solo alla comunità italiana, ma a tutti i liegeois. E quindi ci sarà questa bella serata, chi fosse a Liegi è ovviamente invitato a partecipare, in cui avremo il bel canto e quindi un excursus dedicato fondamentalmente a Verdi, l'Italia che più ci piace, perché poi insomma l'Italia della musica è l'Italia per antonomasia. Non a caso nella musica si utilizza il linguaggio italiano, è la sola arte in cui rimane un allegro, un allegro e via dicendo. Assolutamente. Tra l'altro, secondo lei, quanto resta ancora moderno Verdi nelle sue opere? Quanto c'è di attuale? È attualissimo anche rispetto al messaggio unificante che va vissuto a livello, credo, a questo punto europeo. Però è stato in qualche modo uno dei protagonisti silenziosi, neanche più di tanto, del nostro risorgimento. Ricordo il Viva Verdi, che passava sui muri d'Italia. E quindi dal Nabucco, che è la canzone della nostalgia e del ricordo di coloro che erano ingiustamente vessati, fino alle aree più allegre della Traviata, e lui trova una modernità davvero eccezionale. Infatti sono pienamente d'accordo che quel va pensiero, se non ricordo male, del Nabucco è stato anche l'inno della libertà italiana. A proposito di bicentenari, a volte non ce ne sono mai, quest'anno ce ne sono almeno due, ricorre anche quello della nascita di Richard Wagner, questo straordinario compositore tedesco e uno sicuramente dei simboli principali del romanticismo europeo. Pensate di organizzare qualcosa in merito ugualmente? Beh, al momento attuale non abbiamo niente di pronto, credo che però dobbiamo tenere presente, proprio nell'ambito della cultura e del rilancio dell'Europa, e questo ci sta particolarmente a cuore, la necessità di rendere omaggio anche ai grandi degli altri. E tra le manifestazioni che stiamo organizzando ce n'è una anche di particolare valore politico, si intitolerà una certa idea d'Europa, da rilanciare o da buttare via. Per noi la risposta è quasi scontata, però pensiamo che per rilanciarla ci vogliano tutta una serie di azioni e di comportamenti coerenti. Spero che fra i protagonisti, dei quali ancora non sono in grado di svelare i nomi, ci saranno personalità di alto rilievo, non soltanto italiane, ma di tutta la cultura e del mondo politico europeo. Ci sono altri eventi in programmazione che vorrebbe condividere in anteprima con i nostri amici ascoltatori? Ma stiamo pensando a una caccia al tesoro da fare a giugno, credo che sarà simpatica, perché poi Bruxelles è una città che si presta assolutamente. Stiamo pensando a far ritornare proprio per l'occasione l'amico Max Busuoli, e quindi con il sostegno specialmente dell'attività e con il concorso importante dell'Associazione degli Amici della Banca, saremo sicuramente al fianco dei nostri amici e clienti anche quest'anno. Vorrebbe indirizzare un saluto ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Brussellando? Assolutamente sì, l'idea è quella che possiate venire il più possibile a trovarci nelle nostre agenzie. Speriamo di riuscire a darvi un servizio adeguato. L'ultima delle nostre pubblicità dice: venite a scegliere la vostra poltrona presso di noi, venite a scegliere vostra fratelli Chenu. Non perché siamo messi a fare immobilieri, ma semplicemente per mettere in evidenza che in altre banche hanno fatto sparire perfino la sedia davanti all'Espratam per non perdere tempo. Per noi invece è giusto dedicare a tutti un'attenzione importante, qualunque sia la loro dimensione patrimoniale, perché pensiamo che le persone abbiano dei problemi e debbano essere aiutate a risolverli. Bene, mi sembra essere veramente un messaggio anche di buon auspicio. Direttore, noi la ringraziamo, le auguriamo veramente tutto il meglio per le attività a venire e contate su Brussellando perché sarà al vostro ascolto. Grazie, grazie a voi e faremo tante cose anche quest'anno insieme. Grazie del vostro tempo. Grazie a lei, buonasera.